Sottotiro. Sottotiro. Sottotiro. Storie di mafia e antimafia di Roberto Galullo. L'ennesima vandalizzazione di un bene che sorge su un terreno confiscato, il teatro della legalità a Casal di Principe, gestito dal consorzio Agro Rinasce. Di notte, pochi giorni fa, qualcuno si è introdotto nella struttura rompendo i vetri, distruggendo le macchinette delle bibite e portando via lo scarso bottino. Potrebbe quindi trattarsi anche di un atto di balordi? Certo, ma siamo a Casal di Principe, regno incontrastato, nonostante tutto e tutti gli arresti, dei casalesi. Al di là dell'entità del danno e la contestualizzazione dell'episodio che preoccupa, ha affermato il presidente della Commissione regionale dei beni confiscati, Antonio Amato, visto che in aprile erano stati divelti i cartelli e le tabelle apposte sul terreno confiscato a Vincenzo Zagaria a Casa Pesenna. Sempre a Casal di Principe, ricordiamolo, era stata danneggiata la targa della Casa Dondiana. Era stata rubata una targa, poi ritrovata sulla sua tomba, e il parco pubblico intitolato al parroco ucciso dalla camorra è stato spesso vandalizzato. Una serie di eventi, ha affermato il presidente della Commissione regionale dei beni confiscati alla mafia, Amato, che sarebbe un errore sottovalutare, e noi firmiamo queste parole. Oltretutto è alle porte il più importante evento che si realizza in Campania sui beni confiscati, il Festival dell'Impegno Civile promosso dal comitato Don Peppe Diana e da Libera Caserta, e già l'anno scorso si susseguirono, proprio in concomitanza con questa kermesse, una serie di atti intimidatori. Lo Stato deve dare una risposta ferma, deve dimostrare la sua presenza e il suo sostegno al riutilizzo dei beni confiscati, ha concluso Amato, e per questo è necessario che si dia subito il via alle previsioni contenute nella nuova legge sui beni confiscati, approvata all'unanimità dal Consiglio regionale. Cari radioascoltatori, se dobbiamo sperare nei politici campani di qualunque colore politico, siamo freschi.